Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago, ecco, infantilismo a gogo. Cos'è questa? Gogo. Gugu. Sì, gogo. Madonna, allora è come Godot. Ah sì, è come certo, two years ago. Comunque, bambini all'ascolto, attenzione, non dovete più fidarvi dei vostri genitori per i compiti a casa. Ma no, ma K, non prendere iniziative. Scrivono anche sui giornali, ho capito. Gli adulti ne sanno meno dei loro figli, sì, però, sono cose dimenticate, inutili. Bisogna arrivarci piano queste cose, cioè, perché? No, perché gli adulti che gettano subito lo spugno e dicono ai loro figli di essere stati delle frane a scuola, danno un esempio negativo, quindi giriamoci un po' intorno. Prima ma bisogna. Cosa dici? Non so, tipo, bisogna chiedere ai papà e alle mamme: siete più bravi di un ragazzino di quinta? È il titolo di un programma televisivo. Ma per iniziare va benissimo così, capito? Allora, siete più bravi di un ragazzino di quinta? No. Vabbè, però dovete anche capire, cari genitori, che voi siete degli esempi viventi, degli esempi di persone realizzate grazie allo studio. Quindi ai figli dovete apparire come quelli. Quindi fingete, fingete sempre. Ma cos'è la scuola rotondi questa? Ma no, bravo. No, è così, perché se il bambino torna a casa con un esercizio di matematica da risolvere, bisogna, e lo chiede a te, vabbè, io devo fingere, bisogna fingere di sapere esattamente come si fa. Ma te fingere, però, che... però dovete costringere a farlo lui, cioè, ma tu credi, tu non di sei essere capace, tu no? Non sei più furbo di un ragazzino di quinta neanche nel fingere, lui ti scopre subito. Ma non, no, funziona, ma no, bisogna dirgli: guarda, sono sicuro che lo sai, sei stato attento, quindi se ti impegni lo fai, io ma lo figurati. So, però non voglio aiutarti, voglio che ce la fai da solo, quindi hai capito, è così che bisogna se fare, se tu. Sì, bisogna essere bravi, dunque genitori, dite sempre di essere stati dei geni a scuola e fingete fino allo stremo, mentre i vostri figli vi metteranno alla prova con tutto: teoremi, equivalenze, insiemistica, ipotenuse. Ma come ipotenuse? Ipotenuse. Ma no, è sempre ipotenusa, un'ipotenusa, tre ipotenusa. Ma cosa dici? Ma sì. Ma scusa, ma cornamusa com'è? È così. Tito, basta, dai, basta. No, basta cosa? Basta non vomitare. Porta... Ma no, ma lecca per terra le schifezze e poi vomita. Ma perché abbiamo sempre Tito dietro? Non lo so, perché ti devono tenere sotto controllo. Non lo so, io farei vacanza. Facciamo vacanza. Dai, quindi facciamo a sto vacanza. Punto facciamo vacanza. Vabbè, cosa vuoi che però, ti dica? Dai, no, bisogna parlare di compiti. Bisogna parlare col bambino Albertino. Ma anche. Compiti. Ma basta. Il tema dei compiti dei genitori. Vabbè. Tu fai quello che vuoi, guarda, parlaci tu. Io metto il pilota automatico. Pilota automatico? Ma sì, come fanno i mariti con le mogli quando partono per il weekend o per le vacanze. Ma cosa stai dicendo? I stanno mariti in macchina con e mettono, hai capito? Si mettono il pilota automatico. Succeda quel che succeda, loro sono lì solo con il corpo, col capito? Corpo, ma sì, con lo spirito sono sul divano davanti alla TV. Zapping, patatine, birra. Vabbè, sì. È così. Immagina così. Sì, vabbè. Drago, con il corpo sono nell'agriturismo, con la mente sono davanti alla TV. No, io non ho capito niente. Comunque, Albertino, tu te li fai fare i compiti a casa dai tuoi genitori come fanno quasi tutti i bambini, oppure... Beh, a parte che all'asilo i compiti non li danno. Ecco, basta, dai, è finito, non li danno. Tito, smettila! Oh, lo prendo in braccio. Aspetta, oh, là. Adesso lo tengo in braccio e vediamo. Dai. Vabbè, così sembri Tito. Mickey Rourke. Mamma come puzza. Ma no, signore. Puzza, Madonna. Bambino Alberto, lo tieni tu? Puzza di merda, no. Ah, vedi, non puoi dirlo. 50 centesimi di multa. 50 centesimi. Eh sì. Intanto c'è il bambino Sgarbi che dice, cioè, che dire, pezzo di merda. No, vabbè, vedi, ecco, vedi. Altri 50 centesimi. Basta. Merda tutto intero. Ma turpiloquio, basta. È la stessa... No, ma li sto difendendo. Basta. A parte che all'asilo i compiti non li danno. Eh. E comunque i miei non mi aiuterebbero. Ecco, però questo è interessante, perché lui è sempre malfidato verso i suoi genitori. Come lo sai che non ti aiuterebbero? Ma no, cosa c'entra il malfidato? È che io lo osservo su mio fratello, no? Tutti i pomeriggi lo vedo lì. Ah, perché lui in va a cameretta. Scuola. È certo che va a scuola. E il pomeriggio deve fare i compiti, no? Sì. È matematica, è l'inglese, è le scienze. E fa fatica, eh? C'è pure il disegno con la tempera. Vabbè. Avrebbe anche bisogno di un aiuto. Invece i miei gli dicono, arrangiati. Vabbè, quindi educazione spartana, nordica. Fanno bene, benissimo. Ma no, che educazione, che sono ignoranti. Questi qui non si ricordano niente. Questi qui. Fanno tanto gli intellettuali, no? E vanno al cinema de sé, al teatro de sé, i ristoranti de sé. Tutto de sé. Loro tutto de sé. Ecco. Sì, de sé. Però se gli chiedi di calcolarti la circonferenza di un cerchio, rimangono lì. Ah, perché tu invece, bambino Brest-Litovsk, la circonferenza del cerchio la sai calcolare. Ma cos'è che hai detto? Brest-Litovsk. No, vabbè, ma capo. È Brest-Litovsk. L'ha detto bene. Bravo. Non so che cosa sia. È una squadra di calcio? Ma sì, più o meno, no. Però, un posto dove c'era una pace, forse. È stata siglata una pace. Tito, bravo, mamma, ecco, come puzza. Vabbè, dai. Comunque, questa storia della circonferenza del cerchio, che meno sono capace neanche, l'ho visto l'altro giorno. Sì. E c'era mio padre. Mio fratello gli chiedeva di... doveva calcolare questa circonferenza, no? Allora, mio padre si ricordava che c'era qualcosa che aveva a che fare col greco, no? Vabbè, certo. Il pi greco... Sì. E allora ha cominciato a sfoggiare la sua cultura, no? Cultura, alfa, beta, gamma, così. L'alfabeto greco. A caso, vabbè. Ho capito, ma cosa c'entra con la circonferenza? Vabbè, ma queste sono le figure che facciamo noi adulti alle prese coi compiti di un bambino delle elementari. Infatti, questo mi insegna che a scuola, cioè, sbattersi non vuol mica la pena. Ecco, ma no, invece no, questo, anzi, certo che devi sbatterti a scuola, devi impegnarti al massimo, non deve mai passare questa cosa qui. Ma scusami, se poi da adulto non ti ricordi più niente. Vabbè, no. Quindi tanto vale non far fatica e non sapere niente dall'inizio. Ma, ma non è la stessa cosa, le cose puoi dimenticartene, ma non per sempre. Bravo, capito? Capo, quello che hai imparato da piccolo lo porti sempre con te, come andare in bicicletta, sono delle cose che restano dentro. Ma allora perché papà non è capace di calcolare la circonferenza di un cerchio? Sarà distratto. Deve solo pensarci per bene, poi se lo ricorda, magari non ha tempo. Questo non lo dite voi. Ma a me invece sembra proprio che non lo sappia, Vabbè, ma tu non stare a guardare tuo padre, guarda quello che sai tu. Una cosa che non sopporto di voi adulti è il voltafaccia. Ma come voltafaccia? Adesso cosa dici? Sì, nel senso che voi dite sempre una cosa, no? Tante volte. E poi ne fate un'altra. Ma non è vero. Sempre. Dici, ma perché dici così? Perché è così. No. Voi dite che studiare è importantissimo, no? E poi siete approssimativi su tutto. No, vabbè, uno si può dimenticare qualcosa. Ma per fare strada nella vita, cioè, basta avere un bel aspetto, le conoscenze giuste, E invece voi ci dite che no, bisogna studiare, bisogna meritarselo. Cioè, un bambino che sa sentire quello che voi gli dite e vi guarda, e guarda quello che fate voi, allora va in confusione, no? O no? No, vabbè, non lo so, però c'è un detto che dice fai quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa, o qualcosa del genere. Tito! Ma Drago, non fai sbagliare, che c'è un fiato pazzesco. Ma il prete... Sì, il prete. Cosa c'entra il prete? Ma niente, che appena si va in sti discorsi viene in mente il Vangelo, con le sue famose frasi tipo non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Esatto. Tito, no, ma Tito, dai, è il Vangelo. Poi ragazzi, ma io non ci capisco più niente. No, ma buono Tito. Che puzza. Ma Tito, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma basta, ma capo, adesso cosa c'entra scagli la prima per pietra? Per dire che peccatore. I buoni esempi non li trovi tanto negli atti delle persone, che sono sempre pieni di difetti, quanto nelle parole, capito? Le intenzioni delle stesse parole, lì che c'è il buono. Sì, ma intanto mio papà mi grida di studiare, no? Che studiare è importante. Invece lui mi sembra proprio che non abbia studiato niente, Quindi non aiuta mio fratello nei compiti a casa. Mio fratello prende brutti voti, no? E poi viene anche punito, e sta sempre punito. Quindi io la mia strada la vedo già davanti a me. Ma no, io dai. Farò la stessa fine. Ma non è vero. Sempre con i tre in pagella e sempre punito. Ma no, ma bambino Bergen-Belsen, tu devi riscattare il nome della tua famiglia e andare bene a scuola, no? No, Bergen-Belsen non mi piace, è un suono cattivo. Dai. Bergen-Belsen, Drago. Io non so perché, però non mi piace. Ma non ti piace? Ma che cos'è? Una stazione scistica? Cioè tipo Garmisch-Partenkirchen? Tito, ma basta, Tito. Dai, ma che casino con sto tutor oggi, ma basta! Vabbè, perché non era giusto? Garmisch-Partenkirchen? Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Un programma di Gabbo e Drago. Torniamo domani. E mandate i vostri compiti da fare a chiedoasilo@radio24.it.